30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La primavera araba alla prova del voto domenica in Tunisia e le elezioni si svolgeranno in un quadro di trasparenza e di credibilità, lo ha detto in un discorso alla Nazione il primo ministro provvisorio della Tunisia, Kaid Beje Sepsi, replicando alle ipotesi di broglie che erano state fatte dai vertici di Ennahda, il partito islamico in testa ai sondaggi. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca che ci porta in Tunisia. In Tunisia dove dunque la primavera araba va alla prova del voto, tutto questo accade domani e noi proprio in Tunisia raggiungiamo il nostro inviato, l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Allora Alberto, ti ho chiesto di, come dire, di raccontarci quando ci siamo sentiti il polso della città, credo di poter dire che dunque tu lo fai da un caffè del centro di Tunisi, un luogo insomma dove la gente si incontra, parla e immagino parlerà soprattutto di questo storico momento. Ma sì, non c'è dubbio, in questo momento io mi trovo ad Avenue Bourguiba, che come sapete è la strada principale di Tunisi, quella dove tutto è cominciato, dove è cominciata la primavera araba, dove è cominciata la rivolta dei gelsomini, quella che ha cacciato Ben Ali. E in questo momento sono seduto a un tavolino del Caffè Parnasse, che è uno dei simboli un po' di questa strada, di questa via, uno dei posti dove ci si riunisce a bere il caffè e soprattutto a chiacchierare, a parlare di quello che accade e naturalmente l'argomento principale a poche ore dal voto di domani sono proprio le elezioni. Qui si discute molto, si fanno molte ipotesi, però c'è anche molta incertezza, ci sono anche molte persone che dicono io non so ancora chi votare e se andrò a votare. Fate conto che insomma ci sono 10 milioni e mezzo circa di tunisini, 7 milioni sono quelli che possono votare e finora in realtà registrati nelle liste elettorali ce ne sono 3,8, quindi quasi la metà non si è fatta ancora registrare nelle liste elettorali. Questo significa che c'è una certa sfiducia ancora e forse una grande disabitudine al voto, perché le elezioni che si svolgevano ai tempi del dittatore, dell'autocrate Ben Ali, erano già decise in partenza e quindi la gente aveva una grande sfiducia in quello che è l'esercizio della democrazia. Si tratta insomma di scrivere una pagina bianca della Tunisia, con l'euforia, l'eccitazione, ma anche la vertigine del vuoto, di quello che sarà domani. La vertigine dunque di un nuovo passo, un passo che, lo ricordiamo, condiziona inevitabilmente un'area, perché se è vero che domani la Tunisia vota, poi arriverà il turno dell'Egitto, poi naturalmente la Libia, di cui ora parliamo alla luce anche degli ultimi definitivi avvenimenti. Prima di tutto però Alberto vorrei chiederti una riflessione sulla nostra notizia d'apertura. Ennahda, dunque il partito islamista, viene dato come possibile vincitore. Ma certo, Ennahda è un partito importante in Tunisia, anche perché ha una storia importante. Il suo leader Rachid Ghannouchi fondò addirittura nel 1980 questo movimento di tendenza islamica che poi fu trasformato in partito Ennahda, cioè Rinascita, e già all'epoca di Ben Ali, in una delle elezioni che erano state convocate, si confermò come secondo partito, aveva circa allora il 30% dei voti. Non vincerà la maggioranza ovviamente assoluta dei seggi, probabilmente prevarrà sugli altri partiti semplicemente perché c'è anche una grande frammentazione. Considerate che ci sono un centinaio addirittura di liste elettorali e Ennahda è un partito islamico, un partito che si rifà ai valori, principi e conservatori e tradizionali, anche se il suo leader Ghannouchi ha trascorso 20 anni all'estero in esilio, molti di questi a Londra, e ovviamente ha ammodernato, se vogliamo, anche le linee del partito, cercando in qualche modo di attualizzare il messaggio islamico con quelli che sono stati gli eventi che hanno cambiato la regione in questi ultimi 20 anni. Uno dei suoi modelli politici, dice perlomeno Ghannouchi, è quello della KP turco di Erdogan. Vedremo poi se alla resa dei conti sarà così. Non credo però che sarà una valanga, anche perché c'è una sorta di alleanza non scritta, non detta, ma abbastanza già chiara, tra una serie di partiti laici che in qualche modo potrebbero costituire una sorta di coalizione per bilanciare CNADA. Poi naturalmente tutto quello che avverrà dopo sarà, dopo le elezioni, sarà il frutto di un negoziato per cercare non solo di formare l'Assemblea Costituente, che è l'oggetto delle elezioni di domani, ma anche un nuovo governo che porterà poi ad elezioni il prossimo anno. Insomma, tutto naturalmente da scrivere, mentre Alberto Negri ci raccontava il profilo del leader del partito islamista e Alberto parlavi del lungo esilio, è emersa così quasi spontaneamente l'immagine dell'Ayatollah Khomeini che rientra da Parigi, quindi dalla Ville Lumière, e scrive una storia che poi ha preso una linea molto diversa. Ma ti chiedo, la percezione che la Tunisia oggi offre è quella di un paese che non sembrerebbe disponibile a un percorso di quel tipo? Certo, perché se noi arriviamo in Tunisia vediamo la solita Tunisia che conosciamo, un paese che in realtà ha dato una dimostrazione nella rivoluzione dei Gelsomini di grandissima civiltà, perché è stata una rivoluzione relativamente sanguinosa, relativamente anche composta, e dopo la fuga di Ben Ali comunque il paese non si è certamente sfasciato. Certo, Alberto, scusa, i giovani che sono stati i protagonisti di questa rivoluzione sono presenti nel momento in cui si va ai seggi, dunque si va al voto? Sono presenti, ma anche loro molto molto colpiti da questa, come dire, ondata di sfiducia, che deriva da che cosa? Essenzialmente da questo. La rivoluzione ha sì cambiato l'autocrate e la cacciatoria, però non ha cambiato le condizioni di vita dei tunisini, purtroppo. Cioè, i tunisini soffrono ancora degli stessi problemi che soffrivano sotto Ben Ali, cioè un paese che stenta a uscire dal sottosviluppo, che pur avendo una grande presenza di aziende straniere non ha sufficienti posti di lavoro per tutti. Questo è un paese dove i giovani hanno tassi di disoccupazione altissimi, forse del 30, del 40%, in un paese peraltro dove i giovani soffrono anche di una forte disoccupazione intellettuale, perché qui ci sono centinaia e migliaia di laureati, diplomati, quindi è anche un paese che soffre, come dire, la frustrazione forte, la frustrazione che poi è stata simbolica, ma anche, come dire, eclatante in quel gesto che portò Mohamed Bouazizi il 17 dicembre del 2010 a farsi bruciare, a bruciarsi davanti al municipio di Sidi Bouzid. Cioè quel gesto disperato di quel giovane era il segnale che tutta un'intera generazione in realtà chiedeva qualche cosa di più dalla vita, e questo qualche cosa di più purtroppo non è ancora arrivato. Alberto Negri, lo ricordo, che ci racconta la Tunisia a poche ore dal voto, dal caffè Parnasse, Avenue Bourguiba di Tunisi, quindi il cuore della città. Prima di fare una pausa, Alberto, una domanda inevitabile in queste ore: c'è un effetto Gheddafi su questo voto oppure è una storia altra? Ma guardate, qui c'è stata una scena curiosa ieri, cioè qui davanti proprio al caffè Parnasse, quasi di fianco alla chiesa cattolica che c'è in fondo ad Avenue Bourguiba, questo per darvi anche il clima che c'è in questo paese, un paese dove ci sono anche altre confessioni religiose, non c'è soltanto l'Islam, c'è anche una presenza cristiana e anche una presenza ebraica molto forte. Ma proprio qui davanti, vi dicevo, c'è un hotel dove sono ospitati molti dei feriti della guerra libica. Ebbene, ieri ci sono state scene di giubilo. Cosa ne pensano però i tunisini? I tunisini pensano che la fine di Gheddafi fosse giusta, però valutano che quella libica non sia stata una vera e propria rivoluzione, in quanto c'è stato un intervento della NATO, e soprattutto tutti i tunisini quasi in maniera unanime condannano il modo in cui è finito Gheddafi, cioè in quella maniera che loro reputano barbara, cioè che il suo corpo sia stato trascinato, ucciso, insomma in qualche modo linciato dalla folla. I tunisini preferiscono altri sistemi, farsi giustizia, cioè quelli legali. E l'hanno anche dimostrato, direi, un paese che appunto, Alberto Negri ce l'ha ricordato nel dicembre dello scorso anno con un gesto tragico, con le manifestazioni, con le baguette che allora facevano anche sorridere, ma erano il preludio invece di una vera e propria ondata che ha coinvolto aree ben più grandi della piccola ma centrale Tunisia. Tutto questo oggi alla prova del voto di domani, naturalmente, delle conseguenze dei prossimi giorni. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque in questa puntata dedicata alla Tunisia e al voto di domani, che apre una stagione, in qualche modo una sorta di secondo round rispetto a quello che è stato il tempo della rivolta dello scorso anno, con Alberto Negri che è con noi questa sera proprio dal centro della capitale tunisina. Ora sentiamo, come vi ho anticipato, un profilo che l'ambasciatore italiano in Tunisia, Pietro Benassi, ci ha fatto sul ruolo dell'Italia. Devo dire che l'Italia, come è noto, è sempre stato un partner storico di questo paese per ragioni di vicinanza, ma anche per ragioni culturali. Ha visto sempre una grande collettività qui presente. Gli aspetti della collaborazione economica e commerciale sono stati proprio la parte qualificante di questa relazione economica. Ancora oggi abbiamo in Tunisia circa 700 imprese italiane che danno da lavorare a circa 60.000 addetti. Devo dire che il periodo che ha seguito la rivoluzione ha visto una sostanziale tenuta di questa nostra presenza, una presenza importante, diversificata, anche se con delle specializzazioni molto evidenti. I 2/3 delle nostre imprese sono infatti concentrate nel tessile, calzaturiero e agroalimentare, ma abbiamo anche esempi di collaborazione industriale, abbiamo anche qualche collaborazione nelle energie rinnovabili. La nostra caratteristica appunto segue quella che è la dimensione, diciamo, economica del nostro sistema, quindi una concentrazione di piccole e medie imprese, ma abbiamo anche alcune realtà economiche che danno lavoro a più di 3.000 o 4.000 persone. Però sono ben diversificate sul territorio e devo dire appunto che il periodo rivoluzionario, che certamente ha dato una qualche preoccupazione, soprattutto nel periodo dei sit-in, delle rivendicazioni sindacali a volte anche un po' disordinate, ha visto però le nostre imprese uscirne molto bene, e questo anche grazie a una forte capacità di aver fidelizzato la propria forza lavoro, e quindi anche la dinamica degli inevitabili aumenti salariali si è potuta condurre in un quadro di serenità che è stato apprezzato. E questo, come vi dicevo, è l'ambasciatore Benassi, ambasciatore d'Italia in Tunisia dove torniamo e raggiungiamo Alberto Negri nel centro della capitale, nell'Avenue Bourguiba, proprio cuore appunto della città. A proposito di relazioni Italia-Nord Africa, non posso non citare il Sic Transit Gloria Mundi che Berlusconi ha di fatto dedicato al Gheddafi, ucciso appunto 2 giorni fa. Ecco, in che modo queste relazioni e anche questi cambiamenti evidentemente di atteggiamento da parte del governo italiano condizionano lo scenario tunisino, Alberto? Tra l'altro, proprio mentre stavi parlando, stavo sul video del teleschermo qui del Caffè Parnasse, stavano passando le immagini del corpo di Gheddafi deposto nella moschea di Misurata, e tutta la gente ha alzato gli occhi guardando attentamente queste immagini. Cosa accadrà all'Italia dopo? Bene, quello che è successo qui in Libia, che è successo in Libia, è anche una coincidenza storica. Pensate che 100 anni fa, nell'ottobre, esattamente nell'ottobre del 1911, l'Italia sbarcava a Tripoli, cannoneggiava il porto e cominciava la sua conquista coloniale del paese. 100 anni dopo, questa Italia, questa Libia un po' italiana, forse è più difficile da disegnare, anche perché Gheddafi salì al potere nel 69, poco dopo cacciò gli italiani, poi però fu comunque sempre attento ai rapporti con l'Italia, al punto da corteggiare l'antico colonizzatore con forniture di gas, di petrolio, grandi commesse, allo stesso tempo acquistare di tutto dall'Italia, dalle armi fino ai beni di consumo. Quindi in qualche modo i periodi di Gheddafi, nonostante tutti i contrasti che ci furono tra leader libico e l'Italia, è stato un periodo in cui la Libia è stata comunque sempre agganciata all'Italia ed è sempre stata l'Italia il partner privilegiato di Tripoli. Sarà così anche domani? Beh, questa è una domanda a cui non è molto facile rispondere. Io credo che molto dipenderà da quello che accadrà nella Libia del futuro, chi andrà a comandare, se vorrà in qualche modo confermare le linee del passato o cambiare qualche cosa. Certamente avremo una maggiore concorrenza da parte della Francia, della Gran Bretagna, ma non solo, l'avremo anche da altri paesi come la Turchia, come i paesi asiatici. È successo sempre così, in fondo, dopo grossi cambi di regime in Medio Oriente e in Nord Africa. Certo, l'Italia resta comunque un partner importante, anche perché l'Italia è di fronte alla Libia in qualche modo, ci sono dei legami anche culturali, bisognerà molto puntare anche su questo, ecco, per qualche modo riconfermarsi. Assolutamente, di fronte alla Libia e ovviamente di fronte alla Tunisia, dove sei in queste ore. La Tunisia aspetta, attende molto dall'Italia e dall'Europa, proprio in anche in queste settimane abbiamo registrato la preoccupazione che la crisi interna al sistema UE, che proprio in queste ore insomma affronta passaggi decisivi, porti in qualche modo a dimenticare il sostegno che paesi come la Tunisia hanno bisogno e meritano, direi, in questa fase storica. Ma certamente, finora ci sono state anche delle stime di quelle che potrebbero essere le necessità economiche e finanziarie di Tunisia ed Egitto, i due paesi che hanno condotto le prime due rivoluzioni del Nord Africa. Certo che quello che è arrivato finora da parte degli Stati Uniti, dell'Europa, non è moltissimo, si parla di 250 milioni di euro in tutto, un centinaio di milioni di dollari. La Tunisia poi non ha bisogno soltanto di soldi, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di investimenti, ha bisogno della ripresa soprattutto del turismo, che costituisce un aspetto importante sia per le entrate di valuta ma anche per l'occupazione. Insomma, la Tunisia ha bisogno di tante cose e anche chiede, e questo probabilmente l'ambasciatore prima non lo ha detto, ma io lo so che lui ha incontrato per esempio anche i leader di Ennahda e di tutti gli altri partiti, e tutti hanno chiesto un occhio di riguardo per i tunisini che in qualche modo vogliono venire in Italia a lavorare. Insomma, bisogna anche cercare di capire che cosa sta attraversando oggi questo popolo, che in maniera così civile, direi anche così matura, almeno finora, ha condotto un cambio di regime, è una vera e propria rivoluzione rispetto al passato. Subendo anche, vale la pena ricordarlo, come di fatto Alberto Negri anticipa, l'impatto di quanto è accaduto in Libia in termini numerici impressionanti. Ma non c'è dubbio. Pensate che qui sono arrivati decine e decine di migliaia di profughi dalla Libia, e non erano soltanto libici, come forse ricorderete, erano di tutte le nazionalità, di cittadini di ogni parte del mondo che lavoravano in Libia. La Libia, che ha 6 milioni di abitanti, impiegava oltre 2 milioni di lavoratori stranieri, si parla di addirittura 2 milioni e mezzo. Quindi pensate anche quando è stata il crollo economico per tutta questa area, e non solo per questa area, della rivolta, della rivoluzione in Libia. Peraltro la Tunisia, questo è un aspetto di cui non si parla probabilmente, ha aumentato tutte le sue esportazioni alimentari e agricole verso la Libia, che si è trovata in difficoltà, al punto che oggi persino nei supermercati tunisini è difficile trovare l'acqua minerale o il latte. L'Italia sta dando comunque, ho saputo, un aiuto anche da questo punto di vista, almeno per i beni di prima necessità. Eccoci in conclusione, vorrei chiudere con una notizia che arriva da Parigi, che dice testualmente: l'ondata di immigrati tunisini in Francia dopo la caduta dell'ex dittatore Ben Ali si è esaurita, lo ha detto il presidente dell'ufficio francese dell'immigrazione dell'integrazione. Insomma, l'ondata è conclusa, lo ricordiamo, ancora tra febbraio e giugno la Francia aveva respinto oltre 3.500 tunisini verso il paese d'origine o verso l'Italia, e ricordiamo quanto questo fosse stata al centro anche anche di tensioni tra i due paesi, tra le nostre due nazioni europee confinanti. Insomma, un segnale anche di una forte aspettativa da parte dell'opinione pubblica tunisina. Alberto Negri, le condizioni ci sono. Dopo il voto di domani, la speranza è davvero in fondo di ripartire per un paese che, ricordiamolo, forse è il caso di farlo, ancora 2 anni fa veniva considerato una sorta di piccola tigre del Mediterraneo del Sud. Sì, certo. Come dicevo all'inizio, quello che sta accadendo oggi in Tunisia con queste elezioni è come trovarsi appunto di fronte a una pagina bianca tutta da scrivere. E io penso che i tunisini siano in questo momento in qualche modo anche stimolati a farlo. Si tratta di un percorso, come si diceva prima, non facile, però la rivoluzione dei gelsomini, che qui è iniziata e che poi ha dato via a tutte le altre rivoluzioni in Nord Africa e in Medio Oriente, bene, continua comunque a costituire in qualche modo un esempio, un riferimento per tutti. Grazie ad Alberto Negri, lo ricordiamo, che ci racconta la Tunisia alla vigilia del voto dal Caffè Parnasse Avenue Bourguiba di Tunisi. Naturalmente lo seguirete nel corso del fine settimana, insomma il voto di domani, il seguito, la costruzione di quella che sembra probabilmente una mediazione per il governo tunisino. Grazie anche a Roberto Scaltritti questa sera in regia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento per 30 minuti in cronaca sabato prossimo, come sempre alle 19:30. Buon fine settimana.